Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Abbiamo borse che vanno bene anche oggi, più che bene, Milano vicino al 2% di rialzo, con una buona rotazione, come dicono gli esperti dei titoli, ossia oggi sale Finmeccanica, salgono titoli che ieri erano cresciuti meno, Eni, Finmeccanica guadagna 4,4, Eni il 2,2, Ansaldo pure, come le generali, Unicredito guadagna un altro 2,5, A2A sale del 3,1, Pirelli del 3,2, Telecom dell'1,90, inflessione mediolanum meno 1,6, l'automatica meno 1,2, Banco Popolare meno 0,8. Breaking news. Per dirvi che Mark Cavendish si conferma il principe degli sprinter al Giro d'Italia, vince lui sul traguardo di Arenzano, arrivo in volata naturalmente e Cavendish brucia tutti, invariata la classifica generale sempre di Luca in maglia rosa. E grazie a Carlo Gente, la nostra redazione per l'aggiornamento del Giro. Dicevamo, oltre a Mediaset e Luxottica è negativo di mezzo punto percentuale e Autogrill perde lo 0,70, ma se le borse vanno bene è in rafforzamento netto anche l'euro sul dollaro, è vicino a quota 1,38 e sarà un caso, ma anche il petrolio si rafforza. Sappiamo che quando l'euro sale spesso i paesi produttori di petrolio vendendolo in dollari, così si sentono in diritto di dover recuperare quello che perdono con un dollaro debole. In realtà la spiegazione ufficiale è un dato sulle scorte di greggio americane che hanno avuto un ribasso superiore alle previsioni, ci sta tutta anche questa. Comunque il petrolio è a quasi $62 al barile, obiettivamente saranno anche le scorte americane, però forse c'è qualche speculazione di chi non sa dove mettere i soldi, perché i bot rendono poco e la borsa per alcuni esperti è ancora troppo rischiosa, e poi c'è appunto un euro in rafforzamento. L'Euribor a tre mesi è fermo sostanzialmente, quindi ha smesso di calare. Per quello che riguarda i temi di cui ci occuperemo, partiremo con le nuove regole, le nuove linee guida per la lotta all'evasione, una piaga in questo paese, 200 miliardi l'imponibile nascosto al fisco ogni anno, ossia 100 miliardi di sommerso assoluto e 93 miliardi di sottodichiarazioni. Da un lato le nuove regole per la lotta all'evasione, dall'altro i dati diffusi oggi sulla produzione, sui fatturati ordinativi delle imprese, che mostrano un dato ancora molto molto brutto rispetto a un anno fa, però la caduta mese su mese sta rallentando, cioè c'è un meno 0,8% rispetto a un meno 2% del mese prima, mese su mese sta frenando il calo dal mese a mese, che è l'elemento più importante. Parleremo anche di quelli che dovrebbero essere i temi trattati domani dalla Presidente Confindustria Marcegaglia nella relazione annuale, l'Assemblea annuale di Confindustria, che noi trasmetteremo in diretta dall'Auditorium della Musica di Roma dalle 10.30 in poi. Sarà presente anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, oltre al Ministro Scajola. Ministro Scajola, e così partiamo con la notizia in breve, che è intervenuto oggi sulla vicenda Opel. Alle 18 scade il termine ultimo per consegnare le proposte. Vedremo se poi arriverà subito un commento, una dichiarazione del governo tedesco, oppure se bisognerà aspettare qualche ora. Vi terremo chiaramente aggiornati. Partiamo allora con le notizie in breve e ricordando che il 349-238-6666 è il vostro numero per gli sms, e che nella seconda parte, oltre ai temi della Confindustria che verranno esposti domani dalla Presidente Marcegaglia, ci occuperemo anche del Giappone, che ha avuto un crollo del PIL oggettivamente che si vede solo nei paesi in via di sviluppo, le economie emergenti dell'est. Eh sì, perché il Giappone ha avuto un meno 15% nel crollo del suo PIL nei primi tre mesi del 2009 rispetto ai tre mesi del 2000, ai primi tre mesi del 2008. È il peggior crollo o calo dell'economia giapponese da quando esiste la statistica, 1955. Trimestre su trimestre il Giappone fa un meno 4%, ma insomma, se noi pensiamo che la Germania, che è messa molto male, ha avuto anno su anno un meno 6,9%, l'Italia, che è l'altro paese messo molto male, ha avuto un meno 5%, il Giappone ha fatto un meno 15%, questo dà il senso delle proporzioni. E poi la statistica serve, dal punto di vista storico, mai un calo del genere dal 1955, quindi da più di 50 anni, questo per dire che la crisi non se la sono inventata i media e i giornalisti, poi vedremo come se ne uscirà. Il premier giapponese Taro Aso però ha espresso preoccupazione, ne avrei voluto anche vedere, per la grave situazione dell'economia dopo il crollo record del PIL giapponese. Ha segnalato però anche l'esistenza dei primi segnali positivi, perché ha detto qualche segnale sta arrivando anche in Giappone, il riferimento chiaramente è più al mese di aprile che non ai primi tre mesi dell'anno. Da noi l'industria, come ricordavo, ha fatto a marzo un meno 22,6% quanto ha fatturato, e anche lì male abbigliamento, chimica, meccanica, elettronica, tenere alimentare, male l'auto, la siderurgia. Però rispetto a febbraio rallenta il calo, cioè meno 0,8%. Gli ordinativi industriali meno 26% a marzo rispetto al marzo del 2008, un dato drammatico, però mese su mese c'è ancora un calo significativo del 2,7%. E poi il leader della CISL, Raffaele Bonanni, nella relazione di apertura del 16° congresso confederale, ha detto l'impoverimento delle pensioni e i bassi salari sono un'emergenza nazionale. Ancora, sempre per quello che riguarda le notizie in breve, l'Italia, l'antitrust nella persona del suo presidente Antonio Catricalà, quindi l'autorità garante della concorrenza del mercato, ha avviato verifiche per accertare se la nuova Alitalia sta praticando scorrettezze commerciali. Lo ha annunciato oggi in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera. E sempre il presidente dell'antitrust ha anche spiegato che volendo si può creare concorrenza anche surinate. Ci saranno altri slot disponibili purché si rimuova il limite dei 18 slot imposto dall'ENAC. Sentiamo al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, il presidente antitrust, appunto Antonio Catricalà, ricordare questo elemento su l'INAT. La nostra impressione, studiando le carte, è che ci sia qualche margine, perché il limite che rende l'aeroporto assolutamente regolamentato e quindi senza possibilità di crescita è un limite amministrativo, non è un limite naturale. Si tratta di 18 movimenti orari stabiliti dall'ENAC, probabilmente all'epoca si trattava di considerare la possibilità che Malpensa potesse diventare un hub e avesse necessità quindi di avere anche voli che originariamente erano diretti a Linate. Questa esigenza oggi sembra venir meno, ma a prescindere da questo c'è forte l'esigenza di creare concorrenza sulle rotte da Linate, dove esiste un forte monopolio di CAI, e questo si può realizzare non togliendo nulla a CAI, perché niente si può togliere in questo momento anche per gli orientamenti del Parlamento europeo sugli slot, però si possono aprire nuovi slot tornando ai 25 originari. Questo per quello che riguarda Alitalia. Catricalà ha intervenuto anche sul tema del gas, ossia l'apertura della rete del gas. C'è una controversia in corso da tempo con l'ENI, e allora ha detto Catricalà che è importante che, nonostante la mancata proroga dei tetti, la disciplina delegata sia volta a delineare un quadro che favorisca l'ingresso di gas indipendente da ENI. È il tema che altre volte abbiamo affrontato della separazione tra chi ha la rete per il trasporto e chi ci mette dentro i contenuti del trasporto, per cui vale per le telecomunicazioni, la rete rispetto a quello che ci viaggia sopra, vale anche per il gas e per l'energia, la rete e quale gas poi viene fatto circolare. L'idea è che le due cose, secondo la dottrina, debbano essere separate, perché altrimenti c'è un vantaggio competitivo in chi è possiede sia la rete e deve farci passare sopra, veicolare, chiamatelo come volete, i contenuti in un caso o il prodotto nell'altro. Quindi il gas, sentiamo Catricalà su Eni. Noi non siamo mai appassionati ai tetti. Per l'importazione di gas avremmo voluto dei tetti variabili, flessibili, in ragione dell'effettiva domanda di gas, ma anche in ragione di quanto gas viene poi importato, soprattutto con l'entrata in vigore del rigassificatore di Rovigo. Potrebbe ritenersi che non c'è poi tutta questa necessità di porre dei tetti, però se la devono crescere gli importatori indipendenti, una forma di salvaguardia bisogna lasciarla. Avevamo pensato a questa soluzione. Non è piaciuta per ora al Parlamento. Vediamo se nell'attuazione della delega, che però è stata data al Governo di favorire comunque la crescita dell'importazione, ci sarà la possibilità di effettivamente creare un sistema concorrenziale in questo settore che ne ha bisogno. Ancora per quello che riguarda la vicenda Fiat Opel, poi partiamo con il primo tema, la lotta all'evasione. Dicevamo alle 18 si saprà quali piani sono stati presentati. Oggi il portavoce del governo tedesco ha detto che il governo si aspetta i piani della Fiat, chiaramente, di Magna e anche di altri soggetti. Il portavoce della Opel ha detto non ci sono favoriti, però oggi il ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola, intervenendo su Canale 5, ha ricordato che si sente molto frequentemente con i vertici della Fiat, che dopo la positiva conclusione con Chrysler ci sono buone possibilità, quindi si è definito ottimista, che Fiat possa chiudere anche con Opel. Sentiamo questo passaggio. Dopo la positiva conclusione con la Chrysler, che è importantissima e fondamentale per noi e per tutto il settore dell'auto, ci sono buone possibilità che venga chiusa anche la trattativa con l'Opel. Io me lo auguro, perché se la Fiat cresce, diventa più forte all'estero e in quel caso si tratterebbe del secondo gruppo mondiale dell'auto, diventerebbe anche più forte in Italia. E credo, per rassicurare anche i lavoratori che sono preoccupati in queste ore, che la migliore garanzia per il mantenimento del lavoro anche nel nostro paese è che la Fiat cresca. E poi oggi, sempre sulla vicenda Opel Fiat, anche il ministro Sacconi è intervenuto e ha detto che i sindacati non saranno convocati a giochi fatti. Un po' di pazienza, che ci sta scrivendo al 349-238-6666 in tema di ordinativi fatturati delle imprese. Riceviamo molte segnalazioni di imprese in difficoltà. Ieri abbiamo dedicato più di metà del programma al rapporto banche-imprese dopo le critiche, chiamiamole così, avanzate dal ministro Tremonti. Oggi le trovate su tutti i giornali. Prima di tutto la lotta all'evasione, perché quando poi si parla di fondi, di risorse del governo, il governo che deve anche tenere botta sul debito pubblico, il ministro Tremonti da sempre, a nostro avviso correttamente, è attento a fare in modo che l'Italia non possa andare in difficoltà nel rifinanziare il debito, stringe i cordoni, fa arrabbiare anche qualche ministro del governo, ma insomma, noi abbiamo un debito che da solo è metà di tutto il debito europeo e il terzo debito al mondo. Soldi quindi non ce ne sono molti, anzi ce ne sono molto pochi, si dice da più parti, e bisognerebbe recuperarli dalla lotta all'evasione, anche perché l'evasione, il nero delle imprese, è una concorrenza sleale rispetto alle imprese che pagano le tasse e i contributi per i lavoratori. La settimana scorsa ci siamo occupati di un calo del gettito nei primi tre mesi, un meno 1,3% il gettito derivante dai ruoli, per cui ci sono le cartelle esattoriali dovute alla lotta all'evasione. Il gettito è calato molto in realtà per l'IVA e per l'IRES e per l'IRAP, cioè se il PIL ha un segno meno, è ovvio che le imprese fatturino meno, che ci sia meno IVA e quindi ci sia anche meno gettito fiscale. Jean-Marie Delbo, buonasera, del Sole 24 Ore, Norme e Tributi, buonasera. Buonasera. Oggi l'Agenzia delle Entrate, mi sembra, non solo l'Agenzia delle Entrate, c'è una bozza della convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, che come ogni anno traccia per il triennio successivo l'attività anti-evasione. È una bozza che voi avevate anticipato nei giorni scorsi su Sole 24 Ore. Mi sembra che le vostre anticipazioni fossero corrette. Assolutamente. Anche perché sennò non saresti venuto qui. No, a parte gli scherzi. Ma vediamo di capire come si muoverà il contrasto all'evasione fiscale. Perché leggendo i titoli, certo, ci sono anche titoli molto roboanti. 12.500 controlli con il redditometro, oltre alla barca e all'auto sportiva, anche iscriversi a un centro benessere, ma o alle scuole, o iscrivere i figli alle scuole più esclusive, verrà valutato nel redditometro. E poi i controlli 20.000, 12.000 quest'anno, 20.000 nel 2010, 35.000 nel 2011, 400 controlli sulle società più grandi, quelle sopra i 100 milioni di euro, 1.100.000 controlli preventivi nel 2009. Detto così, insomma, le cifre sono appunto alte, roboanti. Bisogna capire in che percentuale poi questi vanno a contrastare il fisco, anche perché sappiamo che di tutto l'evaso, i 200 miliardi di imponibile nascosto al fisco, lo Stato recupera forse l'1% dell'accertato, no? Allora, il problema di queste cifre è che si presentano, come dicevi tu, sempre roboanti, sempre in grado di suscitare l'attenzione di chi le legge. In realtà questa caratteristica è in parte voluta, ma in parte non deve trarre in inganno. In parte voluta perché la finalità dei piani anti-evasione è deterrente, cioè convincere i cittadini, i contribuenti, che si corrono meno rischi a stare in regola che a essere sottoposti al rischio del controllo. Però roboanti, quindi ingenerano la convinzione che si possa poi recuperare veramente tanto gettito. Magari. Cosa che però purtroppo gli studi dimostrano che non è assolutamente vera. Quindi il problema è questo: la lotta all'evasione va fatta soprattutto per favorire l'adempimento spontaneo, ma dalla lotta all'evasione, disgraziatamente per noi, non possono derivare facilmente a breve termine quei fondi di cui probabilmente le casse dello Stato avrebbero bisogno. Purtroppo, perché se fosse così semplice recuperarle dalla lotta all'evasione, visto l'alto livello di evasione di cui parlavi prima, il nostro Paese avrebbe trovato una chiave per risolvere molti dei problemi di sostenibilità dei conti di cui parlavamo in precedenza. E quindi, insomma, attenzione, le cifre hanno un effetto deterrente, poi però bisogna... Devo dire che un effetto deterrente, di effetto deterrente si parlò ai tempi di Visco, un ministro, diciamo, più inviso per alcuni versi agli evasori, però si disse, attenzione, c'è anche un effetto Visco col fatto che questo, l'ex governo andrà a fare queste verifiche, la gente si mette un po' più in regola. C'è sempre un effetto psicologico, non è solo con Visco, nell'evasione, perché è ovvio che uno evade finché pensa di poter, al livello in cui pensa di poterlo fare, non è un mistero per nessuno. Andiamo avanti con però queste linee guida. Qual è la cosa, diciamo, più nuova, dove viene inasprita l'attività di contrasto? Allora, diciamo che il tratto caratteristico di questi anni è il recupero del redditometro, lo strumento di accertamento che consente di ricostruire attraverso indici di capacità contributiva che derivano dalle spese che una persona fa, in particolare per beni considerati di lusso, consente, come dicevo, di ricostruire un reddito presunto. L'utilizzo del redditometro aumenterà moltissimo negli anni a venire, fino a triplicare nel 2011. Ricordate nei giorni scorsi le polemiche sull'utilizzo della scuola privata come indice per verificare se c'è un reddito sottratto al fisco. In realtà il redditometro funziona con altri strumenti, che sono per esempio le auto di lusso, i contratti con le colf, i cavalli da corsa, le barche. Altri indici, tra questi il wellness, le scuole private, possono essere utilizzati a rafforzamento. Il fatto è che il redditometro dovrebbe consentire di ricostruire più facilmente il reddito, perché è uno strumento che più difficilmente può essere piegato alle proprie necessità da parte dei contribuenti. Sì, ci si avvicina quasi, non vorrei dire una bestemmia, ma insomma ci si avvicina quasi a un'idea più del patrimonio, anche se la spesa per la scuola non è patrimonio, è una spesa corrente, la spesa per la beauty farm non è patrimonio, a meno che uno la beauty farm non se la compri tutta, ma ci vada solo, diciamo, che la una logica... settimana. Però la logica è di dire, siccome io so che parlare di patrimoniale significa poi cambiare tema, ma attenzione, perché in Svizzera, che non è un paese esattamente dal socialismo reale imperante, la tassazione è patrimoniale, per esempio, non è sui redditi, e c'è chi dice anche da diverse parti politiche che forse il recupero lotta all'evasione avrebbe fatto meglio se in questo paese si tassassero i patrimoni e non i redditi. Ma insomma, questa è una vecchia polemica che forse non è caso di aprire. Dico solo che il redditometro si avvicina più a un'idea del patrimonio che tu hai, che non della busta paga o di quanto dichiari. Il redditometro prova a far leva su beni patrimoniali presupponendo che il possesso di questi beni richieda una capacità reddituale se non altro per il mantenimento o per affrontare un determinato carico di spese. Esatto, per cui siccome ci sono 50.000 italiani che ogni anno dichiarano, sono solo 50.000 gli italiani che dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno, ora con tutto il bene e il beneficio del dubbio fa ridere, anche perché poi sono 120.000 quelli che dichiarano di guadagnare più di 100.000 euro lordi l'anno, e non si capisce come mai ci siano 65.000 imbarcazioni sopra i 17 metri, nemmeno sotto i 17 metri, ma sopra i 17 metri, iscritte al registro nautico, e 200.000 auto di grande cilindrata, per cui stiamo parlando di auto che vanno dai 35.000 euro in su, immatricolate ogni anno, per cui anche sommando chi ha 100.000 e 200.000 euro non si capisce, si indebitano, come fanno. E poi sono praticamente 15.670 euro lordi, questa è la media dell'imponibile in Italia, per cui sappiamo che poi, senza voler criminalizzare nessuno, però insomma 15.000 euro lordi l'anno è il reddito medio denunciato da chi è titolare di una macelleria, di un autosalone, di un bar, di un ristorante, di un'agenzia di viaggio e anche dei camionisti. Immaginiamo che molti di questi arrivino anche sotto quello, però immaginare, insomma, che la media di chi gestisce un autosalone sia 15.000 euro lordi l'anno, che vuol dire 900 euro netti al mese. Diciamo che i dati delle dichiarazioni lasciano sempre perplessi. C'è una cosa da dire: quest'anno è un anno molto particolare, e quindi probabilmente quando vedremo i dati delle dichiarazioni del 2009, redditi 2008, fra qualche anno avremo delle sorprese, perché la crisi sta mordendo pesantemente. Ecco, io volevo arrivare all'ultimo tema, che non è previsto, non è presente, diciamo, in queste linee guida oggi annunciate: il tema degli studi di settore. Perché il mondo del commercio, il mondo artigiano dice, e devo dire che da questo punto di vista non è attaccabile, in un anno di crisi pesantissima, con produzione industriale, fatturato di nativi, vendite che vanno giù del 20, del 18, del 24%, se tu mantieni gli studi di settore, cioè hai una presunzione che io, per il tipo di attività che ho, ubicata dov'è, debba guadagnare più o meno una cifra X, non tieni conto della crisi. Esatto. Il problema sta diventando questo. Il governo si è adoperato per correggere gli studi di settore, per attenuarli. Il fatto è che questa attenuazione ha portato e porterà a un rilascio ritardato dei programmi di calcolo che servono proprio per fissare i ricavi. E già oggi c'è la richiesta delle categorie di procedere a un pagamento ritardato senza penalizzazioni per quel che riguarda le dichiarazioni dei redditi di quest'anno. In realtà il problema poi è molto più complicato, perché rischiamo di avere un anno in cui gli studi di settore non sono rappresentativi, e quindi ci potrebbe essere una, come dire, una fuga dall'adeguamento allo studio di settore. Per cui insomma occorre anche stare attenti, perché da un lato più il governo ritarda, più si sentono, diciamo, in dovere di ritardare il pagamento, anche di adeguarsi ai studi di settore e le categorie coinvolte. Ci sono artigiani che per pagare le tasse hanno fatto un mutuo, nessuno lo mette in dubbio, lo dico chi lo scrive, infatti abbiamo detto attenzione, evitiamo i luoghi comuni. Se poi però prendiamo un dato aggregato, dire che 15.000 euro lordi sia il reddito medio vuol dire che c'è chi ne guadagna anche 8.000, di chi gestisce un ristorante o un'agenzia di viaggio o ha un autosalone, oggettivamente vuol dire che non riesce neanche a arrivare a fine mese. Guarda Sebastiano, è tutto vero quello che dice il nostro ascoltatore, tanto che sul Sole 24 Ore qualche giorno fa abbiamo provato a spiegare come si possono utilizzare strumenti leciti per attenuare o ritardare il pagamento dell'acconto. Quindi anche il consiglio è quello di farsi, come dire, consigliare, perché qualche modalità c'è. Per ridurre l'esborso c'è. Altri ascoltatori fanno notare che di questi 50.000 italiani che dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro, probabilmente molti sono dirigenti e quindi anche loro hanno un controllo alla fonte, perché il dirigente i soldi li prende un'azienda, e siccome i dirigenti sono qualche migliaio in Italia, è vero che possono essere alti dirigenti, anche perché le cifre di un dirigente viaggiano intorno ai 200.000 euro, anche di più, però beati loro. Altra cosa per quello che riguarda gli SMS che stanno arrivando, la domanda classica e poi chiudiamo, Gianmaria De Bo, tanto c'è ogni volta ma è giusto che ci sia: perché non, come contrasto all'evasione, non si crea il cosiddetto conflitto di interesse? Cioè, tutte le volte che io devo fare una fattura, ne abbiamo parlato anche recentemente per un caso virtuoso, tutte le volte che devo fare una fattura devo essere stimolato a richiederla, perché posso detrarla? Perché, l'abbiamo portato a chiedere anche al ministro Padoa-Schioppa a suo tempo, perché non si dice dà la possibilità di detrarre l'idraulico piuttosto che il tecnico che viene in casa tua, insomma, queste spese che altrimenti uno si sente offrire, se vuole la fattura è 10, senza fattura è 8. Brevemente, perché non c'è accordo nemmeno tra gli studiosi sull'effettiva utilità dell'operazione. In realtà forse si potrebbero fare degli interventi mirati, e qui il sistema ha offerto delle opportunità negli ultimi anni, perché se ci pensiamo bene 36%, 41%, 55% sono degli esempi virtuosi. Probabilmente bisognerebbe individuare altri settori nei quali provare a sperimentare questa modalità. Eh sì, perché l'effetto poi concreto, ci sarebbe un calo delle entrate nel fisco iniziale, perché è chiaro che io vado a scaricare di più, e non si capisce se poi tutto questo verrebbe recuperato, ho capito bene? Cioè, sì. E soprattutto, esatto, c'è questo problema, diciamo, di contabilità generale, e poi c'è anche il convincimento che non in tutti i settori si creerebbe il circolo virtuoso, perché in alcuni ambiti probabilmente le connivenze, chiamiamole così, sono più forti che altrove. Allora, grazie Gianmaria De Bo, adesso c'è il metodo, la pubblicità. Ripeto, chi scrive, immagino artigiani, siamo tutti d'accordo, ne abbiamo parlato più volte anche con Union Camere, con la Confartigianato, delle difficoltà che vivono le piccole imprese, e a maggior ragione le piccole imprese artigiane, le imprese con un unico intestatario. Detto questo, nessuno se la sta prendendo con voi, però attenzione, perché poi i numeri aggregati sono inesorabili: 200.000 auto di grande cilindrata immatricolate ogni anno in Italia, con solo 50.000 italiani che guadagnano più di 200.000 euro e 120.000 che guadagnano più di 100.000 euro. Di questo stiamo parlando, non stiamo dicendo che gli artigiani, anzi il mondo del commercio, non vivono una grossa difficoltà in questi mesi, l'abbiamo anche raccontata. Grazie Gianmaria De Bo. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dobbiamo cambiare tema, lo dico a chi continua a scrivere sulla lotta all'evasione dopo le direttive diffuse oggi dal Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate, già anticipate da Sole 24 Ore nei giorni scorsi, la bozza della convenzione. Allora, perché si recupera così poco? Ne abbiamo parlato già altre volte. Dall'accertamento di quanto occultato al fisco all'effettiva riscossione, lo Stato incassa l'1%, anche se la tendenza è in miglioramento, i ricorsi, insomma, una storia molto lunga, ancora più così demoralizzante. Alcuni dicono che le barche, le auto di lusso siano tutte in leasing. Ho capito, ma anche un leasing costerà, cioè un leasing per una barca costerà, non è che tutti si possono permettere 500-600 euro di leasing al mese, così, e magari dichiarare 15.000 euro l'anno lordi, no? Poi ancora, cosa si intende per auto di grande cilindrata? Beh, si intende auto che costano sicuramente, lo dico a chi scrive, più di 35-40.000 euro, non scherziamo. Adesso però la borsa e la buona giornata di borsa, che ha visto anche un rafforzamento dell'euro e del petrolio, chiude in rialzo di quasi il 2%, l'1,90% il MIBT, l'1,70% l'S&P MIB. Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Anche il Giappone, che ha visto crollare il PIL, comunque oggi è chiuso in positivo, più 0,6%. Seduta cruciale per la Fiat, alle 18 scade il termine, cioè tra 20 minuti, per presentare le offerte. Poco fa di nuovo ha parlato il ministro Scajola. Il piano della Fiat pare abbia riscosso una buona accoglienza da parte tedesca, speriamo che si possa chiudere positivamente, anche perché, ha continuato Scajola, ormai è una cosa di cui si parla da troppo tempo, riferito alla vicenda Fiat e parlando al margine del congresso della CISL, scusate. Mediobanca, tornando alla borsa, il miglior titolo più 4,7, CIR più 4,3, Fondiaria più 4 come Bulgari, Finmeccanica più 3,80, Pirelli più 3,5, A2A più 3, Eni più 2,7, Ansaldo STS più 2,4 come Alleanza, Saipem più 2,2, Telecom più 2,2, Tenaris più 2% come Atlantia, Intesa San Paolo guadagna l'1,90 come le Generali e Unicredito. Fiat più 1,80, di nuovo torna quasi 8 euro per azione. Chiudiamo con De Campari più 1,5 e Ubibanca più 1,4. Chi perde? Mediolanum meno 1,4, Automatica meno 1,3, Banco Popolare meno 1,2%. Bene, oggi a rotazione petroliferi energetici e poi Mediobanca. Partiamo da Mediobanca. Sì, Mediobanca ha fatto più 5% da qualche seduta, più 4,75% sul finale per l'esattezza, da qualche seduta che i titoli si comportano bene, però va rammentato che nei primi 14 giorni di maggio le azioni avevano perso terreno, quindi si tratta più che altro di un rimbalzo tecnico. È proprio infatti dal 14 maggio che i titoli hanno iniziato a rialzare la testa, complessivamente hanno guadagnato il 10%, che è esattamente più o meno quanto avevano perso invece nei primi giorni del mese. Ancora la vicenda Fondiaria Sai, perché? Perché il titolo oggi ha chiuso con un più 4%. E gli analisti di UBS, che ripeto dovrebbero autoanalizzarsi, fare autoanalisi visti i conti del colosso bancario svizzero, continuano a consigliare cautela su Fondiaria. Perché? Esatto, stranamente oggi gli analisti di UBS non sono stati seguiti dal mercato. UBS ha raccomandato cautela puntando l'indice sulla limitata visibilità sui tempi di recupero, soprattutto del comparto non vita, comparto nel quale appunto è molto presente Fondiaria Sai. E poi appunto la banca d'affari si aspetta anche un certo ritardo nella stabilizzazione e nella ripresa sul fronte dei prezzi, rispetto invece a quello che aveva stimato la compagnia stessa qualche mese fa. E così appunto gli analisti, pur rivedendo al rialzo le valutazioni e anche il prezzo, il fair value, cioè il prezzo al quale dovrebbero attestarsi sul mercato, hanno comunque raccomandato cautela. Peraltro appunto anche il target di prezzo è inferiore alle attuali quotazioni di borsa. Le Fondiaria Sai hanno chiuso esattamente a 12,04 euro. Eh sì, beh, chissà se è un male che il mercato non ascolti gli analisti, soprattutto diciamo se vengono da banche che hanno mostrato poca lungimiranza nei loro investimenti. È una, così, un'ipotesi. Positiva, l'abbiamo detto, Parmalat. Bene, oggi tutto il settore energia e petrolio. Il petrolio è di nuovo a $62, vedo andar bene a 2A più 3,1%, la municipalizzata di Milano e Brescia, lo dico a chi ce lo chiede, Eni più 2,70 e anche Saipem, tutto il comparto petrolifero. Telecom Italia più 2,2 sopra l'euro, un euro per azione. Sì, Telecom Italia ormai da giorni sotto i riflettori del mercato, ci si sta chiedendo quale sia il futuro della compagnia. Continua a circolare l'ipotesi che Telecom Italia possa fondersi con Telefonica, anche se in verità questo appare per adesso un progetto difficile, soprattutto perché non riscontrerebbe il gradimento del governo. Per questo anche oggi Repubblica è tornata sull'argomento e ipotizza anche che lo stesso governo Berlusconi possa pensare di tornare al piano appunto di scissione della rete, che è il vero valore della compagnia e quello che va difeso da parte del governo stesso, per poi procedere effettivamente a una fusione. Ovviamente per adesso si parla solamente di ipotesi di stampa, d'altra parte il mercato tiene alta la guardia. E ancora su Telecom, la vicenda è tutt'altro che chiarita. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, ancora due battute su RCS e Pirelli, bene i due titoli, poi parliamo invece dell'economia italiana. Una nota a chi scrive ancora sui temi dell'evasione: nessuno ha mai detto che l'evasione si concentri tra gli artigiani e i commercianti, e quindi quando scrivete non parlate degli avvocati, dei dottori, dei medici, dei notai, dei dentisti, ma perché non si parlava delle categorie, si diceva solo complessivamente presi i dati non stanno in cielo né in terra. Anzi, se poi vogliamo andare a guardare, è chiaro che forse l'avvocato, il dentista, il notaio guadagna più dell'artigiano e del commerciante, senza forse. E in secondo luogo nessuno se l'è presa con le auto di lusso e le barche di lusso. L'Italia ne produce, è vero, le vende anche all'estero. Si è solo detto che i dati incrociati anche in questo caso non stavano in piedi tra il numero di auto immatricolate, barche di proprietà e dichiarazione di reddito. Di nuovo in diretta, allora chiudiamo Eleonora con RCS, oggi in borsa molto forte, così ci spostiamo anche in migliori e peggiori, RCS Media Group, la Rizzoli più 46%, bene anche Class Editori più 17%, anche Banca Generali più 11%, Piaggio più 10%, Poligrafici più 20%, sul fronte opposto invece BNP Paribas meno 4,6%. Rizzoli Corriere della Sera da un lato e dall'altro anche abbiamo visto andare bene le Pirelli. Sì, partendo da RCS si può dire che a riaccendere i riflettori su RCS è stato un report molto positivo di Mediobanca, istituto che ricordiamo detiene comunque il 14% del capitale della società che controlla poi il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport. Mediobanca ha apprezzato il piano che è stato presentato la scorsa settimana di cosiddetto efficientamento, vale a dire di taglio dei costi, c'è anche un consistente piano di riduzione del personale e appunto reputa che a questi livelli di prezzo i titoli non rispecchino in verità i fondamentali dell'azienda, che peraltro ha un debito assolutamente sostenibile, sostengono appunto gli analisti di Mediobanca. Per quanto riguarda le Pirelli invece si tratta ovviamente di un titolo che ha maggiore capitalizzazione rispetto al RCS e quindi il progresso del 3,57% ma qualitativamente consistente. Diciamo, a riaccendere i riflettori sui titoli della Bicocca è stato sia un report positivo di Goldman Sachs ma soprattutto il fatto che oggi sono state ben acquistate tutte le azioni del comparto pneumatici in Europa, ma soprattutto sulla scia delle tedesche Continental, che alla borsa di Francoforte sul finale hanno messo a punto un progresso del 16%. Oggi infatti la famiglia Schaeffler per la prima volta ha ammesso che sta studiando una fusione, se ne parlava da tempo, circolavano indiscrezioni, ma oggi per la prima volta è stato ammesso che è allo studio questo piano e quindi questo ovviamente ha fatto volare le azioni di Continental. Grazie Eleonora Micheli. L'ultima risposta, veramente l'ultima, sul tema di apertura, lotta all'evasione. Nessuno ha detto che i dirigenti guadagnano tutti più di 200.000 euro, ho detto che molti o alcuni lo fanno, ci sono anche dirigenti a 80.000, 100.000. In realtà era difesa dei dirigenti, perché loro comunque le tasse le pagano tutte ricevendo i soldi dall'azienda, dalle imprese, perché probabilmente rientrano in larga parte tra quei 50.000 italiani che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno. Noi cambiamo tema, o meglio entriamo nel tema dell'economia italiana, sia perché poi cercheremo di capire quali saranno le linee guida dell'intervento di Emma Marcegaglia domani in assemblea in Confindustria, l'assemblea annuale, ma anche perché oggi sono usciti i dati sul fatturato e gli ordinativi italiani delle imprese italiane nel mese di marzo. Tema che affronteremo anche nella seconda ora del programma. Intanto ringrazio il professor Fabio Pammolli, capo economista e direttore del centro di ricerca CERM. Buonasera professore. Buonasera, grazie a lei. Perché nella seconda parte ci occuperemo di economia reale, come si chiama, con un'espressione che a me non piace molto. Da un lato il Giappone, che ha visto un crollo storico, meno 15% il PIL, mai successo dal dopoguerra, da quando esiste la serie statistica. Però il dato di oggi sull'industria italiana merita un primo commento, poi lo analizzeremo. Il fatturato a marzo, il fatturato dell'impresa ha fatto un meno 22% sul marzo 2008 e questo purtroppo ce l'attendevamo. Meno 0,8% sul mese, e questo sembrerebbe essere un rallentamento, una frenata nella caduta il mese su mese, che è la cosa più interessante da guardare adesso per capire quanto sta si spera rallentando la caduta. Un suo primo commento, poi i settori li analizziamo nella seconda parte del programma. Il punto è quello che a cui accennava lei. Dopo 5 mesi di variazioni congiunturali negative, comprese tra il meno 2,7 e il meno 4,6, questa riduzione del fatturato interno è solo, tra virgolette, del meno 1,3%, il che sembra segnalare un rallentamento della crisi in termini di velocità di riduzione del fatturato. L'altro elemento positivo, questo più positivo, per quanto sempre modesto in termini di valori assoluti, è il fatto che per la prima volta abbiamo un dato positivo del più 1,0% relativo agli ordinativi interni sul congiunturale, quindi marzo su febbraio, entrambi questi valori. Cioè gli ordinativi industriali interni? Sì, sono ripartiti e per la prima volta abbiamo un valore congiunturale che è lievemente positivo. Perché gli ordinativi hanno fatto meno 26% anno su anno, meno 2,7% mese su mese, però lei parla della domanda interna, diciamo, chiamiamola così. Sì, sì. E questo è un segno che, come sappiamo, può essere letto come anticipatore di dinamiche che si realizzeranno nei prossimi mesi. E questo, a mio avviso, di tutta questa giornata è il segnale più positivo, perché sembra segnalare una ripartenza degli ordinativi che poi si rifletterà nei prossimi mesi sui fatturati. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento sui dati relativi alla nostra industria, diffusi oggi dall'Istat, e poi ci porterà questo a parlare anche dell'intervento che farà domani la Presidente Confindustria Marcegaglia nell'Assemblea Annuale. Dicevamo, e lo facciamo col professor Palmolli, che è direttore del Centro di Ricerca CERM, che il dato, se si guarda l'anno su anno, marzo 2009 su marzo 2008, come tutti i dati di questo periodo, viene da piangere, meno 26% gli ordinativi, pesanti anche il fatturato, meno 22%. Se però guardiamo gli ordinativi mese su mese, c'è sempre un calo, marzo su febbraio ha fatto meno 2,7. Però, se ho ben capito il suo ragionamento, professor Palmolli, lei dice, scomponendo diciamo, gli ordinativi, che sono importanti perché gli ordinativi poi significano fatturato successivo, speriamo anche produzione successiva, si vede che sono andati mese su mese, marzo su febbraio, molto male quelli all'estero, meno 9%, però c'è un segno più per la prima volta da luglio, per cui sono ormai 9 mesi, c'è per la prima volta un dato col segno più, ossia le variazioni nazionali, più 1%. Questo vuol dire che sta ripartendo un po' di più la domanda interna rispetto a quella estera? Questa può essere un'interpretazione che troverebbe anche una conferma e troverebbe delle motivazioni nella struttura e nella composizione del risparmio delle nostre famiglie e in altre dinamiche legate appunto alla domanda interna. Un'altra spiegazione è quella che dopo aver eroso le scorte, avendo tenuto i livelli di produzione contenuti nei mesi scorsi, ci può essere una fase in cui si ricostituiscono gli stock. Quindi prima di dire che questo dato è un dato che persisterà, dobbiamo attendere un momento. Però sicuramente è un dato positivo e che ci fa capire che un segno di ripresa lo si vede. No, non di ripresa, cioè di rallentamento, di diminuzione. Siamo in quel mondo che descriveva lei, che è un mondo fortemente negativo, stiamo parlando delle derivate, tra virgolette. Sì, vabbè, per cui un segno di rallentamento nel calo, cioè di un calo che via via va a diminuire, questo si vede, per ora c'è ancora il segno meno, complessivamente, così come lo dico chi scrive al 349-238-6666, c'è il segno meno sul fatturato dell'industria, però è un meno 0,8 quando mese su mese, quando a febbraio su gennaio fece meno 3, a gennaio su dicembre meno 4, a dicembre su novembre meno 3 e poi novembre su ottobre meno 4, insomma il dato positivo sul fatturato bisogna tornare a giugno con più 2,5%, ma che fu un'eccezione. Diciamo meno 0,8 è il dato migliore nel calo del fatturato mese su mese da giugno del 2008, quindi insomma, speriamo che questo sia poi il segnale di un rallentamento, di un arresto della caduta. Grazie al professor Palmolli. Noi restiamo in tema di imprese, mentre vedo alcuni flash. La TV tedesca starebbe dicendo che Fiat ha chiesto il rinvio del termine per presentare l'offerta alla Opel a mezzanotte. Il termine scadeva ufficialmente alle 18. Secondo la TV tedesca, Fiat avrebbe chiesto di spostare il termine a mezzanotte. Vi daremo ulteriori aggiornamenti. Parliamo di restiamo in tema di imprese, cerchiamo di capire quali sono e quali saranno anche i temi toccati domani da Emma Marcegaglia, che farà anche il bilancio. Questa è anche l'occasione per fare un bilancio di un primo anno di presidenza, visto che un anno fa si insediava la presidenza di Confindustria. Emma Marcegaglia. Ultima parte di Focus Economia. Mentre dall'America ha parlato il segretario del Tesoro Timothy Geithner, ministro dell'economia americano, che ha detto ci sono segnali di una guarigione sul mercato finanziario, ma il lavoro non è finito. Il piano del governo americano per aiutare le banche a ripulirsi da tutti i prodotti tossici prenderà via nel corso delle prossime 6 settimane. Poi su General Motors ha detto che la task force sta lavorando in vista della scadenza del 1 giugno, senza la quale, senza un piano, a quel punto General Motors dovrà dichiarare la bancarotta, andrà in Chapter 11, in amministrazione controllata, in bancarotta pilotata. Non è detto che non ci vada comunque. Noi restiamo in tema di industria, e in questo caso però italiana, per capire anche e trarre un bilancio di un anno di presidenza Marcegaglia, visto che domani alle 10:30 lo trasmetteremo in diretta e vi sarà il discorso per l'assemblea annuale. Però vi devo dare anche gli aggiornamenti che arrivano dalla Germania. Il governo tedesco ha prorogato, da quello che capiamo, i termini per la scadenza del piano Opel, quindi ha accolto la richiesta della Fiat, da quello che capiamo. Prorogati, la Fiat aveva chiesto poco fa, stando a quello che riferiva la TV tedesca, di prorogare i termini fino alla mezzanotte, visto che le agenzie non stanno battendo altro. Sembrerebbe che il governo tedesco abbia deciso di prorogare i termini almeno fino a mezzanotte di oggi. Vi terremo informati. Dicevamo, un anno fa si insediava in Confindustria la prima donna presidente, Emma Marcegaglia. Ricorderete anche il discorso che abbiamo fatto sentire, un consenso unanime, e prendeva il posto, ha preso il posto di Luca di Montezemolo, poco più che quarantenne Emma Marcegaglia. E da lì è stato un anno oggettivamente per l'economia italiana e le imprese italiane tutto in salita. In salita perché a settembre si era già scatenata la crisi peggiore degli ultimi 30 anni, ma nel frattempo il bilancio di questo anno vede un insieme di interventi da parte di Emma Marcegaglia. C'è il tema della nuova contrattazione aziendale, l'accordo firmato con UIL, CISL e altre organizzazioni, ma non con la CGIL. Quello che dà più importanza al contratto di secondo livello, quello di carattere aziendale, rispetto al contratto quadro di carattere nazionale, firmato il 22 gennaio di quest'anno. E poi però la crisi morde anche le imprese, e su questo fronte la richiesta arrivata da Emma Marcegaglia negli ultimi mesi è di avere una disponibilità economica, dei fondi di garanzia per i prestiti alle imprese, soldi veri, come ricorderete da quell'intervento all'Assemblea della Piccola Industria di Confindustria il 14 marzo a Palermo. Questo è il momento del linguaggio della verità. Noi rischiamo di perdere nei prossimi mesi i veri campioni del Made in Italy, quelli che hanno fatto grande l'Italia e che devono continuare a fare grande l'Italia. Proprio per questo noi non vogliamo assistere all'ennesimo conflitto tra istituzioni, ma vogliamo vedere la massima collaborazione tra governo, Banca d'Italia, banche e imprese. Adesso servono soldi veri. I denari a sostegno delle imprese devono essere veri, certi e soprattutto devono arrivare subito. E in qualche modo questi soldi sono arrivati, visto la disponibilità di 1,7 miliardi di fondi di garanzia, che per un effetto che abbiamo già spiegato, moltiplicatore, permette poi di avere prestiti per almeno 10 volte il valore complessivo, anche 20 volte. La cassa depositi e prestiti, più installo forse della trattativa con l'ABI per i prestiti alle banche. Ma insomma, Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, tu ne scrivi oggi sul quotidiano, buonasera innanzitutto. Buonasera. Un anno che ha visto anche l'intervento di Confindustria, la pressione sul governo per rimodulare degli accordi di Kyoto 2 che avrebbero penalizzato moltissimo le nostre imprese, il nostro modello di imprese molto manifatturiere. Kyoto, il tavolo dei contratti, i soldi veri, sono questi, diciamo, i tre punti principali? Sì, sono d'accordo con te, sono questi i tre punti principali. La Marcegaglia ogni tanto nei suoi interventi lo dice, mai mi sarei aspettata di diventare presidente di Confindustria e di trovarmi di fronte a questa crisi, perché quando lei a maggio dell'anno scorso è stata eletta presidente, noi sì, eravamo ad una crescita zero, un petrolio $140, ma si presupponeva, si prospettava una ripresina nel 2009 con un aumento del PIL di quasi l'1%, cioè, poca roba, ma comunque una crescita. Sempre meglio che meno 4. Certo, e quindi come prima mossa in questo scenario la Marcegaglia aveva puntato alla riforma della contrattazione, che è appunto una firma molto importante che cambia le regole che erano in vigore dal 1993, quindi insomma da parecchio tempo, che andavano ringiovanite, rispolverate. E dopodiché da settembre in poi, come dicevi tu, con il crack della Lehman è cambiato il mondo e quindi drammaticissima crisi, azienda a corto di liquidità, e quindi ha dovuto passare proprio un anno in trincea a fare i conti con dati sempre peggiori, con previsioni di PIL sempre più negative, e con un primo trimestre, questo primo trimestre che ha segnato veramente dei cali record di produzione industriale, di ordini a picco e di schifo in alto della cassa. Sì, si beccò anche del Corvo, non lei, diciamo il centro studi Confindustria, Luca Paolazzi, molte volte il nostro ospite. Ha preso questa polemica con Scaiola, devo dire che senza nessuna polemica con Scaiola, ci mancherebbe, però poi i dati si è dimostrato che purtroppo non era questione di essere corvi, gufi o galli, visto che anche noi usiamo gli animali, è questione di guardare i dati. I cali sono stati dei crolli drammatici, certo. E come commentavamo fino a poco fa, adesso forse tra marzo e aprile i primi segnali di un rallentamento, non dico termine perché sennò qua poi partono i segnali scaramantici, ma insomma di un rallentamento forte di questa recessione economica si avverte, però fino a febbraio... Si è fermato il crollo, ma i dati sono sempre negativi. Comunque con Scaiola hanno fatto la pace. No, vabbè, ma questo ci interessa. Ma era importante capire poi come, certo, i dati, diciamo, sono dati, i numeri sono numeri. Inutile ogni volta tirarli da un punto di vista politico. Andiamo avanti, perché c'è un altro aspetto in realtà in cui si vede molta continuità con la presidenza Montezemolo. E mi riferisco a maggior ragione in un anno di estrema difficoltà per le imprese italiane, a tutte le attività che vanno sotto il nome di internazionalizzazione, che poi sono quelle missioni imprenditoriali che Radio 24 ha seguito, se ne occupa operativamente il vicepresidente Zegna, che ha la delega su questo, che ha seguito, e penso solo negli ultimi tempi, Israele, Russia, ne partirà una a giugno in Malesia e Singapore, che vedono centinaia di imprenditori fare incontri business to business e poi aiutati dall'ICE, dall'ABI, dalla Confindustria, quindi anche dal Ministero, dalle banche e dalla rappresentanza degli industriali. Sono le missioni, infatti in questo la Marcegaglia si è mossa sulla scia di Montezemolo, Giustamente, perché in questa fase comunque di caduta del PIL, di produzione e di ordini, bisogna andare comunque a cercare nuovi mercati, a cercare quei mercati che magari ancora crescono, e comunque tenere duro su quelli dove uno è, anche a costo di ridurre i margini, per poi essere pronti quando arriverà la ripresa, perché arriverà. In questo le emissioni hanno, con i numeri soprattutto, la grande partecipazione, dimostrano una volontà di reagire del sistema imprenditoriale italiano. In Russia ad aprile c'erano 1000 imprenditori, la Russia è indubbiamente per noi un mercato molto interessante, ma in questa fase è in crisi nera anche la Russia, eppure c'erano 1000 imprenditori, ci sono stati 6500 incontri faccia a faccia tra imprese proprio per cercare business, e questa è la dimostrazione che nonostante tutto c'è la voglia di reagire, e questo lo raccontavano proprio gli imprenditori nei corridoi, dicevano: noi siamo qui perché tanto comunque dobbiamo cercare i nostri spazi, dobbiamo creare le premesse per riprendere. Questo è il bilancio di un anno, per sommi capi. Domani è chiaro che, visto che interverrà anche il Presidente del Consiglio dopo l'intervento del Presidente Confindustria, e questo non è abituale, c'è sempre il Ministro delle Attività Produttive, domani ci sarà anche Silvio Berlusconi, vedremo se poi Berlusconi annuncerà altre iniziative a favore delle imprese, vedremo. Grazie per ora a Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, sempre in tema di imprese. Per concludere, oggi a margine parliamo del rapporto banca imprese, perché a margine della presentazione di una nuova società di gestione del risparmio fatta dal fondo Clessidra, e quindi Claudio Sposito, con il Monte dei Paschi di Siena, il numero uno del Monte dei Paschi, il presidente Giuseppe Mussari, ha anche ricordato alcune iniziative anticrisi messe in campo dalla banca, quindi le accogliamo e le facciamo sentire con favore. In questa fase il tema centrale è il tempo. Tanti nostri clienti hanno bisogno di tempo per superare una fase difficile. Tutte queste iniziative servono a affrontare il tema del tempo, anche perché se resteranno tutti vivi alla fine della crisi sarà molto meglio per noi. Quando tempo significa che tu per un anno non paghi la rata, condizione più favorevole di non pagare non esiste. Così Giuseppe Mussari al microfono del nostro Stefano Totaro, e da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Vi lascio alla nostra programmazione, noi ci sentiamo domani dalle 10:30 per la diretta dell'intervento di Emma Cegagli, e poi dalle 17 in poi con Focus Economia. Focus Economia.